che dolore. Pioggia, come nei miei occhi guardo dentro a questa vita nera senza te, la vita che ormai io non ho più. Le tue carte le hai giocate bene insieme a me, sono prigioniera di un amore grande, ma l'amore solo mio, quello che dai tu, è finto come te. Ma muoio senza te. Io hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Come sono amare le mie notti quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Sono incatenata ormai con te. Azzurro nel mio cielo senza te, ma l'azzurro è solo nel ricordo dei tuoi occhi ormai. Cerco dentro un'altra primavera senza te, quella che volevo per noi due. Le tue carte le hai giocate bene insieme a me, hai barato e mi hai rubato il cuore sempre. Questo cuore che avevo dato solo a te, è fermo senza te, e muoio senza te. Sì, hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Come sono amare le mie notti, quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Sono incatenata ormai con te. Amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Hai l'amore, che dolore. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Hai l'amore, che dolore. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Come sono amare le mie notti quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Sono in casa.